Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia e allora in le notizie e l'attualità di questa giornata economico-finanziaria. Questa sera ci sarà il vertice Eurogruppo, poi domani il vertice Ecofin. In qualche modo i temi che verranno toccati li ha già anticipati il ministro Tremonti ieri da Cernobbio, ultima giornata dei lavori del workshop Ambrosetti. Li ricorderemo sostanzialmente. Le tre S le ha chiamate Tremonti: la sorveglianza, le sanzioni e la sessione di bilancio. Ossia, l'Europa cercherà di iniziare a darsi delle nuove regole per evitare formalmente che vi siano squilibri all'interno dei vari paesi e quindi che vi possano essere paesi che non vengono sorvegliati e sanzionati in maniera corretta e appunto che i bilanci siano tendano verso lo stesso rigore. Quella che è la linea europea, ma anche, non si può dire formalmente, per legare l'Europa alla Germania. Lo raccontavamo venerdì in diretta da Cernobbio. Quello che è emerso chiaramente anche durante il workshop Ambrosetti è una Germania che dice: beh, noi andiamo avanti per la nostra strada, abbiamo una produttività, un export, dei tassi di crescita superiori agli altri paesi europei, abbiamo usato il rigore, stiamo rimettendo a posto i conti pubblici, abbiamo buttato quasi 100 miliardi di euro per far ripartire l'economia. Chi vuole ci segua. E il tema dell'isolamento o della fuga in avanti tedesca dal punto di vista economico è un tema delicatissimo, perché chiaramente in gioco c'è la tenuta stessa dell'impianto europeo. E quindi vertice importante questa sera. Domani mattina ve lo racconteremo, anche perché l'Eurogruppo è quello di questa sera, domani c'è il vertice Ecofin. Per quello che riguarda la cronaca, io sottolineo che oggi Sole 24 Ore in prima pagina e poi richiamato a pagina 3 ha un rapporto con cui partiremo subito, in cui è andato a vedere, il tema è l'evasione fiscale, ma è andato a vedere la differenza tra i redditi dichiarati al fisco e i consumi delle varie regioni italiane. È una specie di così redditometro regionale, passatemi il termine, ma la classifica è importante perché al di là di quello che ogni regione dichiara, cioè i contribuenti di ogni regione dichiarano, si mettono assieme consumi e dichiarazioni e si vede laddove si avvicinano di più i due indicatori e laddove invece sono molto distanti. La distanza massima tra redditi dichiarati e consumi effettivi si registra nelle regioni del sud, nel caso specifico Sardegna e Sicilia, ma poi anche Calabria, Campania, Puglia, meno la Basilicata e Molise, poi una differenza media in Lazio e nell'Abruzzo, una differenza bassa nel centro Italia, incluso poi la Liguria e il Friuli Venezia Giulia, una differenza minima nelle regioni del nord, quindi dall'Emilia Romagna al resto del nord del paese. L'unica eccezione è la Val d'Aosta, che invece ha una differenza abbastanza alta tra redditi dichiarati e consumi effettivi. È un elemento importante sempre in questa logica del federalismo fiscale, che già ci portò a parlare la settimana scorsa di altre tabelle pubblicate dal Sole 24 Ore, ossia quanto le regioni saranno mosse in questi 10 anni al di là delle posizioni di partenza. Ricorderete la puntata di lunedì scorso, quali erano stati i progressi, un po' come gli studenti, in cui si va a vedere più il progresso che il semplice voto. Poi parleremo del nucleare, dichiarazioni anche da Cernobbio sulle tappe per il nucleare, le borse come vanno. Allora, oggi l'America è chiusa, è Labor Day, per cui non c'è il riferimento di Wall Street. Le borse sono moderatamente positive in tutta Europa: Parigi più 0,4, Francoforte più 0,3, come Londra e come Milano. A Milano si mettono in evidenza soprattutto da un lato ST Microelectronics più 1,80 e poi Italcementi più 1,6, Geox più 1,4, Finmeccanica più 1,2% e Exor più 1,2, Ansaldo STS guadagna l'1%. Chi perde di più invece Fiat meno 1%, come Monte dei Paschi lo 0,6% lo perde Luxottica, Infine l'euro è a quota 1,2880, quindi vicino a quota 1,29, in leggero rafforzamento sul dollaro. Come sempre l'ultima cifra è quella per i vostri sms, 349-238-6666. Vi anticipo che nella seconda ora avremo anche un'intervista che abbiamo realizzato sempre a Cernobbio con il numero uno di Telecom Italia, Franco Bernabè, non tanto sui e non solo sulle situazioni di Telecom, ci siamo ripromessi di avere un'intervista più avanti, ma sul scenario economico, prospettive di crescita e di ripresa viste appunto anche da chi dirige il primo gruppo italiano delle telecomunicazioni. Adesso le altre notizie in breve. E allora partiamo subito con il petrolio in calo questa mattina, pesa un'incertezza sulla ripresa, ma insomma attenzione anche a queste frasi. Il petrolio viaggia a $76 al barile ed è inchiodato tra i 70 e gli $80 ormai da mesi interi. Ancora, per quello che riguarda invece l'incertezza, devo dire che se la si sente sul tema sul mercato petrolifero, in realtà non la si sente nell'argento, nell'oro, perché insomma l'argento ha toccato un nuovo record dal 2008, ai livelli più alti della primavera del 2008, $19.87 l'oncia. E l'oro viene indicato invece di nuovo in rialzo, anche se di poco, a $1.250 l'oncia. Questa mattina come hanno chiuso le borse asiatiche? Bene, sulla scia dei dati americani sull'occupazione che hanno allontanato quantomeno i timori di una brusca frenata. Nessuno può in questo momento prevedere quanto sarà il rallentamento dell'economia, se sarà modesto o se invece sarà consistente. Però la brusca frenata sembra allontanarsi e questa mattina ne ha preso atto soprattutto Tokyo, che ha chiuso in rialzo del 2%, ma anche Hong Kong più 1,80%. Restiamo in tema di economia internazionale, perché se da un lato il capo economista del Fondo Monetario Internazionale Olivier Blanchard in un'intervista oggi alle Figaro dice la crescita economica resterà fragile, nel primo trimestre dell'anno le banche europee hanno fatto man bassa, come abbiamo anche sospettato pure noi, di titoli, di obbligazioni, di BOT e BTP emesse dai cosiddetti PIGS, i porci sarebbe in... che è l'acronimo per Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna. Se n'è accorta la stessa banca centrale, che ha scoperto che nei primi tre mesi del 2010 le banche internazionali hanno comprato titoli di questi paesi, obbligazioni, per €109 miliardi. Praticamente l'esposizione delle banche internazionali verso Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna è di 2.600 miliardi. Ecco perché poi quando il mercato si è messo ad attaccare questi paesi le banche hanno perso molto. Le banche stanno ottenendo finanziamenti a tassi bassissimi, il tasso zero dalla Banca Centrale Europea, e investono questi soldi comprando obbligazioni. Abbiamo usato la battuta delle vecchiette di una volta, no? Che mettevano tutti i risparmi nei BOT e nei BTP, lo stanno facendo anche le banche. Intanto oggi, ed è una buona notizia, la Spagna è riuscita a collocare obbligazioni, quindi debito, a farsi finanziare debito per €10 miliardi, ma in generale le banche spagnole hanno ottenuto un'ottima fiducia dai mercati. Il primo è stato il Banco di Bilbao Vizcaya, 2 miliardi di obbligazioni collocate, e la situazione secondo vari economisti in Spagna inizia a normalizzarsi. E poi il vertice di questa sera, dicevo, le tre S di Tremonti, sorveglianza, sanzioni e la sessione di bilancio, intesa come un elemento più lungo in cui i vari paesi portano le loro leggi finanziarie, vengono valutate non semplicemente brevemente come avviene adesso, ma in maniera più articolata. La Spagna è contraria alle sanzioni sul Sanzioni con i paesi che non rispettano le regole del patto di stabilità, quindi sforano il tetto del deficit e del debito, che vadano a colpire i fondi strutturali, cioè i fondi che vengono dati per le aree depresse. Questa è una delle ipotesi. Infatti, se tu non stai nelle regole, ti leviamo i soldi europei, quelli che anche noi, in maniera abbastanza così, non sempre efficiente, riceviamo per il nostro sud soprattutto. E poi si dovrebbe analizzare una stretta, un giro di vite sulle vendite allo scoperto e sull'utilizzo degli strumenti derivati. Nel frattempo in Italia arriva la notizia che, purtroppo lo immaginavamo anche noi, che i debiti delle famiglie italiane sono aumentati del 21% tra luglio del 2009 e luglio del 2010, cioè nell'ultimo anno hanno toccato quota 580 miliardi. Sono 100 miliardi in più in un anno di debiti delle famiglie, soprattutto però legati ai mutui per la casa. Chiudiamo con l'Italia. Continua la protesta, come vi raccontavano i nostri GR dei pastori a Roma. È arrivata infatti anche una delegazione davanti al Ministero delle Politiche Agricole. Nel pomeriggio vertice dovrebbe già essere iniziato con il Ministro e con la Regione Sardegna e con l'associazione di categoria. E la Coldiretti dice praticamente basterebbe 1-2 kg di pecorino in più per salvare i pastori. La mungitura di una pecora vale molto meno di una tazzina di caffè. Sono 70.000 praticamente gli allevamenti di pastori rimasti in Italia, oltre 9 milioni i capi, con 7 milioni e mezzo di latte prodotto. E dice, però accusa poi la Coldiretti che lo Stato italiano, attraverso la Siemens, che è controllata dal Tesoro, è proprietario di un'industria che in Romania con latte rumeno e ungherese produce formaggi di pecora che vengono spacciati come made in Italy. Beh, sarebbe il massimo se noi fossimo i primi a farci del male da soli. Sui dati che testimoniano la crisi del settore della pastorizia in Italia, sentiamo Sergio Marini, presidente della Coldiretti, al microfono la nostra Alessandra Schepisi. C'è una crisi gravissima sul prezzo del latte ovino, c'è una diminuzione soprattutto in Sardegna intorno al 20-30%. Questo solo in parte è giustificata dal calo di esportazione negli Stati Uniti, peraltro un'esportazione che non è legata al calo dei consumi negli Stati Uniti, ma sostanzialmente allo spostamento di vero pecorino romano italiano con falso pecorino importato da vari paesi, anche europei. Tra l'altro abbiamo anche verificato che in alcune industrie europee che producono pecorini con marchi che richiamano l'Italia è coinvolto direttamente lo Stato italiano in quanto proprietario, per cui la contraffazione chiaramente legale che però imita il finto made in Italy vede lo Stato coinvolto. Chiederemo anche conto di questo oggi al Ministro Galan. Gli interventi che può mettere in piedi il Ministero e le Regioni sono di diverso tipo. Innanzitutto un parziale ritiro del prodotto in eccesso per riportare un prezzo adeguato al latte ovino, ma poi la strategia è quella di lungo periodo evidentemente, nel senso ristrutturare la filiera, perché è evidente che se non c'è una lotta vera e forte al finto made in Italy non ci sarà prospettiva non solo per gli allevatori italiani ma per tutti gli agricoltori italiani e anche per il made in Italy. La piattaforma che oggi presenteremo al Ministro Galan, pertanto al Governo, prevede delle questioni da risolvere nel brevissimo periodo, come il ritiro di una parte di pecorino romano, come è stato fatto peraltro gli scorsi anni per grana e parmigiano, da destinare alle popolazioni più povere, questo per recuperare un po' il prezzo sul latte e diminuire l'offerta. Così il presidente della Coldiretti. Un breve inciso, perché noi teniamo molto all'agricoltura, abbiamo dedicato spesso puntate. Tutelare la pastorizia significa anche tutelare il paesaggio, questo lo diciamo sempre, vale per il vino, vale per le produzioni agricole in generale. Attenzione a non pensare che sia solo un problema di 70.000 pastori, così anche descritti in maniera un po' ironica. Mantengono il paesaggio, mantengono anche il territorio. Non si capisce perché le regioni autonome, Trentino, Alto Adige, Val d'Aosta, Friuli, diano ampi finanziamenti a chi gestisce i pascoli e le malghe, ampissimi praticamente, gli pagano quasi tutto. Non si capisce perché quando c'era la crisi del formaggio del grana, allora ministro Zaia, molto sensibile ai temi del nord, mettiamola così, fece pagare, acquistare allo Stato forme di grana, insomma Non facciamo discriminazioni anche tra grana e pecorino, ecco, mettiamola così, già l'Italia è abbastanza lunga e abbastanza divisa. Abbastanza divisa anche sulla differenza tra redditi e consumi. Oggi un'intera pagina su Sole 24 Ore, fotografie regione per regione, si è andati a vedere, tra l'altro tutte le classifiche le trovate provincia per provincia, regione per regione, sul sito del Sole 24 Ore. Ma dico, è andato a vedere la differenza tra i redditi dichiarati, al di là di quale sia il livello, e i consumi effettuati in quella regione. Molti sms già arrivati al 349-238-6666 dicendo ma insomma avete considerato i consumi dei turisti, perché è chiaro che i consumi sembrano più alti dove ci sono i turisti, al sud invece... Tranquilli, vi chiarisce tutto Giovanni Parente, che assieme a Gianni Trovati è uno dei due autori dell'inchiesta ed è il nostro ospite oggi. Buonasera Giovanni. Buonasera a voi. Allora, prima dato, come avete stilato questa classifica tra i redditi dichiarati e i consumi che si registrano, quali famiglie avete preso in considerazione? Abbiamo cercato di comparare i redditi e i consumi delle popolazioni residenti nell'area. La residenza anagrafica. Esatto. Ora. Per questo abbiamo cercato di prendere delle voci di consumo insieme all'Istituto Sintesi, che ci ha elaborato tutte quante le tabelle, e quindi abbiamo preso i consumi alimentari pro capite delle famiglie residenti, i consumi di energia elettrica pro capite, i consumi di carburante pro capite. A questo abbiamo aggiunto alcune voci che saranno molto attenzionate dal fisco italiano con il nuovo redditometro. Quindi vale a dire la quota percentuale di abitazioni di pregio o le autovetture di grossa cilindrata, praticamente voci di ricchezza che in qualche modo il fisco si prepara ad esplorare meglio con le misure varate dalla manovra dell'ultima estate. Ecco, sulle autovetture, il fatto che molti, sappiamo come è giocato, le intestino la società, leasing, quello siete riusciti in qualche modo a avviarlo, perché è chiaro che laddove sono presenti più società come nel nord è anche più facile dire ma io possiedo solo un'auto un'utilitaria, poi hai quella grossa in testa della società, sappiamo che lo fanno, no? Chiaramente questo è un problema, e quindi abbiamo cercato di far riferimento ovviamente ai nuclei familiari, quindi alle persone fisiche, e anche perché appunto l'elaborazione, il confronto è stato possibile solo con variabili in qualche modo omogenee. Allora, fermo restando che Sole 24 Ore non è l'agenzia delle entrate, che quindi si tratta di lavorare a livello giornalistico con i dati alla mano, lo dico perché poi insomma, se vediamo quale sarà il redditometro che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, loro hanno gli strumenti, hanno la Guardia di Finanza, hanno gli ispettori, hanno i computer, noi possiamo lavorare sui dati pubblici, e quindi con questo caveat, con questo diciamo premessa, raccontaci la classifica, perché un po' lo immaginavamo, ma insomma voi avete misurato la differenza tra redditi e consumi, dove è più alta e dove arrivano anche le sorprese. La forbice si allarga moltissimo nelle regioni del sud, quindi insomma questo vuol dire che nel sud si tende a consumare di più di quanto si guadagna, detto molto semplicisticamente. È impossibile. Da questo punto di vista è un sinonimo, forse l'ennesima fotografia, ma quando ci si trova davanti è sempre dura, e comunque in qualche modo rendersene conto che nel sud c'è un maggior tasso di sommerso, perché evidentemente sono dei redditi che non vengono dichiarati e invece si tramutano in spese, in consumi delle famiglie residenti sul posto. Quindi ne emerge un'Italia esattamente spaccata in due, però bisogna comunque avere delle cautele nell'esaminare questo tipo di dati. Questo non vuol dire che al nord non esista l'evasione fiscale. Esiste chiaramente l'evasione fiscale, ma è in qualche modo riportata ad altre variabili. Noi qui stiamo solo esaminando quelli che sono i consumi delle famiglie. Beh, al nord ci può essere anche più evasione partita IVA. Esattamente. Nei contributi, perché essendo più alta l'occupazione, essendoci più imprese e industrie, è più probabile, anzi quasi certo, che vi sia un tasso di evasione più alta nel mondo, come volume complessivo, nel mondo delle imprese e delle società, essendo molto meno al sud. Però vorrei chiarire il tema delle variabili che avete utilizzato, perché vedo molti messaggi su questo. Allora, le variabili erano consumi alimentari pro capite, consumo energia elettrica pro capite, consumo carburante pro capite, autovetture oltre 2000 cc di cilindrata, autovetture circolanti per 100 abitanti, variazioni percentuali dei depositi nel triennio e quindi depositi bancari, esatto, quota percentuale di abitazioni di pregio. Allora, voglio dire, lo sappiamo tutti che andando a guardare quelle che sono le dichiarazioni dei redditi, l'abbiamo raccontato mille volte, 18.000 euro lordi, quello che viene dichiarato dagli autonomi, con praticamente persone che dichiarano più di 200.000 euro lordi in questo paese sono 75.000, però siccome 62.000 sono dipendenti o pensionati, quindi quelli non possono evadere, gli autonomi che dichiarano più di 200.000 euro lordi in Italia sono la bellezza di 13.000. Peccato che vi siano 1 milione di auto circolanti sopra i 2.500 cc di cilindrata, 94.000 barche oltre 10 metri, 500.000 barche sotto i 10 metri. Allora, qualcosa non torna, l'abbiamo detto mille volte. Tra l'altro le persone che dichiarano più di 100.000 euro lordi l'anno in questo paese, lasciano stare i dipendenti e i pensionati, restano 160.000 persone, un po' pochino. E queste sono le varie. Ed è anche ovvio che se noi ci trovassimo di fronte ai redditi che dichiarano, cioè i gioiellieri, 18.000 euro lordi l'anno, dovremmo avere gioiellieri che girano con le utilitarie. Sappiamo che non è così, e questo vale per tante altre categorie. I ristoratori 13.000 euro lordi l'anno, gli albergatori 13.000 euro lordi l'anno, i baristi 16.000 euro lordi l'anno, i proprietari delle discoteche. In discoteca si entra gratis notoriamente perché dichiarano 5.800 euro lordi l'anno. E i centri benessere, anche qui tutti gratuiti, 3.600 euro lordi l'anno di dichiarazioni. Per cui insomma c'è qualcosa che non torna. Le cose che vi hanno più sorpreso, Giovanni? Guarda, assolutamente un dato di fatto è il dato della Valle d'Aosta, no? Ad esempio sembrerebbe l'unica enclave settentrionale in terreno, come dire, di scarsa congruenza dal punto di vista dell'infedeltà fiscale, invece va spiegato anche questo dato, cioè, ci sono regioni come quella a statuto autonomo che concedono molto più facilmente degli incentivi, delle agevolazioni sugli acquisti di beni importanti, quindi in qualche modo da questo punto di vista i contribuenti non vedono intaccare il proprio reddito. Ecco che quindi la discrepanza in qualche modo può essere in qualche modo ridotta. Sicuramente c'è il fatto che e questo è particolarmente realistico sottolinearlo, che sia tutto il sud, ma tutto il sud compreso in questa fascia di scarsa rispondenza dal punto di vista della fedeltà fiscale. L'unica regione che in qualche modo è in un'area, come dire, in una zona un po' più grigia è la Basilicata. E la Basilicata dove che si allinea a due regioni del centro che sono Lazio e l'Abruzzo. Anche la fotografia sulle province non fa altro che poi rispecchiare il dato macro regionale. E quindi con Aosta che su 103 province, quella dove è più alta la differenza tra consumi e redditi, e quindi dove è più alta l'evasione, parliamoci chiaro, nessuno immagina che uno si compri la macchina a debito o vada al ristorante chiedendo soldi alla banca. Allora è Ragusa, poi Catania, Siracusa, Messina, Sassari, Aosta è il 98esima, poi Brindisi, Avellino, Nuoro, Benevento, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Caserta, Trapani, Cagliari, Crotone, Taranto, Caltanissetta, Napoli, Oristano, Lecce e via così. La prima delle regioni non del sud è Rieti, e per andare alle peggiori delle regioni, delle province del nord, bisogna arrivare a Como, che è 56esima come discrepanza. Anzi, scusate, in Brescia e Novara, che sono 66esime. Le migliori, quelle dove invece la differenza è inesistente, sono Bolzano, Bologna, Milano, Forlì, nell'ordine prima, seconda, terza e quarta, Forlì, Cesena, Belluno, Cuneo, Venezia, Ferrara, Torino, Ravenna, Alessandria. In queste province cosa vuol dire che la differenza tra redditi e consumi è nulla, Giovanni? Che in pratica quello che si guadagna tendenzialmente si tende a spenderlo da questo punto di vista, quindi per queste voci di spesa che abbiamo esaminato è sempre bene precisarlo. Un'ulteriore aggiunta però anche chiaramente a quelli che possono essere i dubbi di metodologia utilizzati, se si prendono anche i dati relativi alle dichiarazioni IVA il risultato non è molto diverso se si fa il confronto per regione. Si va a vedere che ad esempio la Calabria è una delle regioni con la più alta forbice fra reddito dichiarato ai fini IVA e poi consumi che vengono effettuati nel territorio regionale. Quindi Questa evidentemente è una cartina di tornasole, ma certo, esistono anche altri dati, anche altre possibilità di elaborazione che ci confermano come gran parte del sommerso in qualche modo si annidi al sud. E anche cronologicamente è interessante verificare come nel tempo questo sia un problema sedimentato che tende a ripetersi negli anni con le dichiarazioni dei redditi. Sì. E sulle tasse sui rifiuti e tante altre cose che sappiamo esatto. Essere, ahimè, largamente evasa. Attenzione, perché il federalismo fiscale deve essere appunto, deve tenere assieme il paese, ma occorre che tutto il paese si senta paese, non che alcuni ritengano di non dover contribuire attraverso il fisco o contribuire molto meno a quello che è il benessere collettivo, perché poi la polizia si paga anche a sud, gli ospedali si pagano anche a sud e via così. Lo dico senza, sapete che in questo programma non c'è nessuna così vena in qualche modo nordista, però così come abbiamo difeso il sud da federalismi spinti, bisogna anche riconoscere che questi tassi sono inaccettabili. Dico anche a chi scrive: attenzione che quando si vanno a prendere i consumi di elettricità pro capite, e lì si scappa poco, perché voglio dire, il consumo di elettricità dipende sì dalla lampadina che accendi, ma anche da tutti gli elettrodomestici che hai. Ora, se i consumi sono simili al nord e le dichiarazioni sono di un terzo, qualcosa non torna, Questo vale anche per i consumi, sono tutti gli indicatori che usa anche il fisco, il consumo pro capite di carburante. Ora, per carità, ma anche lì, se tu hai un consumo di carburante che è molto simile, qualcosa non torna, perché non si capisce come tu faccia, se no. E vale anche per le autovetture circolanti e per le autovetture oltre 2000 cc. Autovetture circolanti, perché se hai due macchine in casa, comunque evidentemente lo puoi permettere. E le autovetture sopra i 2000 cc di cilindrata, perché anche qui è un indicatore di ricchezza, fermo restando, e qui però avanzo io i miei dubbi, questa pratica molto molto invalsa soprattutto al nord, diciamo, o quantomeno là dove c'è impresa, dove c'è una società, di intestare la macchina al leasing alla società e far finta che serva di rappresentanza, poi vediamo sfrecciare delle cose che sì, rappresentano solo chi c'è sopra, non certo la società. Vabbè, grazie a Giovanni Parente. Meteo, pubblicità, la borsa che ha chiuso con lo 0,1%, poi il nucleare e poi i temi sulla crescita europea che verranno affrontati già questa sera al vertice Eurogruppo. 349-238-6666 per i vostri SMS. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Commentiamo adesso la borsa. Vedo molti messaggi sul tema che poi era l'inchiesta di oggi del Sole 24 Ore, differenza regionale tra redditi dichiarati e consumi effettivi. Allora, alcuni obiettano, ma attenzione, magari uno con i soldi che guadagna non li consuma e li mette come deposito in banca. Allora, al di là del fatto che a questo punto dovremmo avere redditi alti e consumi bassi, il problema è che qua abbiamo consumi alti e redditi dichiarati bassi, quindi il ragionamento non tiene, ma ciò nonostante negli indicatori, le 6-7 indicatori che ha preso in considerazione solo 24 ore, c'è anche la variazione percentuale dei depositi bancari nel triennio. È da lì che si vede che si guadagna ben più di quello che si dichiara, cerchiamo di capirci, perché tu puoi anche consumare poco. Non erano solo i consumi intesi come fare la spesa o comprarsi l'abito. A chi dice le automobili, se poi uno compra la macchina 2000 cc usata, ho capito che la compra usata, ma sempre la 2000 cc, mica compra un'utilitaria usata. Per favore, non giriamo attorno ai problemi, passiamo subito alla borsa. Visto che stiamo indagando da settimane su quanto lunga è l'Italia, ed è ahimè molto lunga, si vuole fare il federalismo, però bisogna prendere atto anche che il paese non si può sfaldare. Allora, alla fine chiusura modesta per Milano, più 0,1, Parigi più 0,3, Francoforte più 0,3, Londra più 0,1, l'America più 1,2, Nasdaq più 1,6%, quello di venerdì, perché come oggi abbiamo raccontato l'America è chiusa per il Labor Day, ed è su questi dati che questa mattina Tokyo ha chiuso in rialzo del 2% e Hong Kong dell'1,83%. Ancora l'euro quota 1,2882, come sempre con i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Il commento, Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, al di là della chiusura dell'America per Labor Day, tutto sommato positive le borse, oggi io vorrei partire dalla Roma Calcio, perché Unicredit ha garantito l'acquisto di Boriello con 15 milioni di euro di linea, però la Roma Calcio oggi ha fatto un più 5,85%, ma non c'entra il calciomercato. No, c'entra il fatto che potrebbe essere insomma una delle settimane, se non decisive, senz'altro importanti per quanto riguarda la ricerca di un nuovo azionista di riferimento, quindi un nuovo proprietario per la Roma Calcio. Secondo le indiscrezioni circolate nel weekend, nella fine di questa settimana, quindi giovedì, venerdì, si terrà il primo incontro in cui l'advisor di Unicredit presenterà, cioè Rothschild, presenterà a Unicredit le offerte al momento sul tavolo. Si è parlato del fondo di private equity Clessidra, si è parlato di Wind, che è anche uno degli sponsor della Roma, si è parlato del gruppo Angelini. Vedremo appunto nel momento in cui Rothschild presenterà le offerte quali saranno le offerte veramente concrete, e su questo insomma il mercato cerca un po' di premiare il titolo, di premiare l'attesa. Oggi più 5,8%, stiamo sempre parlando però di un titolo che quota comunque sotto un euro, quindi un titolo piuttosto volatile, l'abbiamo avuto dimostrazione nelle ultime settimane. Sì. Poi c'è una notizia di mercato, ossia commessa da quasi mezzo miliardo di euro per il gruppo Finmeccanica attraverso la controllata Selex Galileo per la fornitura di sistemi di protezione, sarebbero sistemi elettronici di protezione per il caccia di nuova generazione, l'aereo caccia intercettore di nuova generazione che è Eurofighter Typhoon. La commessa arriva dall'inglese BAE Systems. Sì, su questo Finmeccanica e anche la controllata Ansaldo, per la verità, in scia si sono mosse molto bene. Finmeccanica ha guadagnato l'1,1%, Ansaldo lo 0,9%, come tu appunto hai ricordato, commessa da 400 milioni di sterline per Finmeccanica. La consegna è prevista per la metà del 2010, sono appunto i sistemi difensivi di protezione per gli Eurofighter, verranno forniti alle quattro nazioni partner del progetto, cioè Regno Unito, Italia, Spagna e Germania. Su questo il titolo è stato premiato. Ancora per la vicenda invece più generale di borsa, abbiamo tra i migliori in assoluto ST Microelectronics più 1,80, di Finmeccanica abbiamo già detto, poi Italcementi più 1,60, l'Automatica più 1,3, Geox più 1,1 e anche Xor più 1,1. Invece tra i peggiori Fiat meno 1,25, Monte dei Paschi meno 1%. Se ci sono novità su Fiat, se no direi Monte dei Paschi da un lato e ST Microelectronics dall'altro. Beh, per quanto riguarda Fiat, diciamo così, è una correzione tecnica relativa al raggiungimento di una soglia di 10 euro, che è una soglia tecnica su cui il titolo, diciamo così, non ha saputo sfondare, ha superato i 10 euro e poi è arretrata. Dopo ricordiamo però un quasi più 9% dall'inizio di settembre per Fiat. Correzione anche per il Monte dei Paschi, nonostante nel weekend il direttore generale Vigni abbia parlato di un secondo semestre su cui c'è fiducia, su cui potrebbe essere un risultato migliore del primo semestre, però il titolo aveva corso e quindi c'è stata una correzione. Andamento contrario invece per quanto riguarda ST Microelectronics, che da qualche giorno è sotto i riflettori, soprattutto dopo che il centro Gartner ha stimato una vendita in crescita per quanto riguarda le vendite di semiconduttori, quindi per il settore delle semiconduttori nel 2010 del 31,5%, quindi alzando le precedenti stime, quindi orizzonte migliore per ST e il titolo ne sta beneficiando da qualche seduta. Allora, bene anche altri titoli, oltre a quelli citati, Ansaldo più 0,90, 2A più 0,70 come UbiBanca, male oltre a quelli citati anche Tenaris meno 0,80, Luxottica meno 0,80, Buzzi Unici meno 0,6 come Telecom Italia. Migliore e peggiore in assoluto, Archimedica più 13%, GDF Suez più 8,6, poi Roma Calcio, Brembo, molto bene la Brembo. Accordo di partnership con Ford e quindi tre sedute che va bene. Fronte opposto, Renault de Medici meno 6, Carsef meno 4,2 e basta, investimenti e sviluppo meno 3,6%. Edison bene oggi, anche perché diciamo, il numero uno Quadrino da Cernobbio ha parlato di una disponibilità a entrare nel progetto nucleare. Di nucleare parliamo dopo le informazioni sul traffico. Intanto grazie per ora a Andrea Fontana e l'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera. Dicevamo del nucleare. Allora, prima di già ricevo i messaggi al 349-238-6666. Questo programma, come su tantissimi altri temi, non ha una sua posizione. Prende atto delle dichiarazioni. E noi personalmente non siamo né contro né pro il nucleare. È un'alternativa usata in molti paesi. Tra l'altro la Germania, molto citata come paese che starebbe tornando indietro, in realtà ha prolungato in media di 12 anni la vita delle sue centrali nucleari. Non mi sembra già mai un paese così, insomma, poco attento ai temi ecologisti. E il previsto allungamento della vita delle centrali nucleari tedesche è stato definito da Angela Merkel una rivoluzione nel settore, per il settore energetico del paese, perché ha detto in questo modo riusciremo a garantire un approvvigionamento energetico che è il più efficiente ed ecocompatibile del mondo. Lo dice Angela Merkel in un paese come la Germania che ai temi verdi ci tiene abbastanza. Sentiamo allora da Cernobbio ieri, da un lato il ministro dell'economia Giulio Tremonti, dall'altro invece il presidente della Confindustria Marcegaglia, microfono al nostro Simone Spezia, dire, insomma, Tremonti, che il nucleare va fatto in Italia come in altri paesi, e la Marcegaglia sostenere che occorre in qualche modo accelerare anche i tempi. Tutti dicono l'Italia è un po' debolina sul PIL, noi competiamo con paesi che hanno il nucleare e nel calcolo del PIL devi mettere dentro in negativo il costo dell'energia che importi. Se sei l'unico paese che importa tutta l'energia, è facile dire l'Italia è sul PIL, gli altri no, dobbiamo fare di più. Dobbiamo fare nucleare. E questa è una di quelle questioni che forse non saranno tra Guelfi e Ghibellini, ma voglio vedere chi ha davvero coraggio di dire no alla fine del tutto. Cioè preferisco l'eolico, i mulini a vento, eccetera. Noi crediamo molto nell'opzione da sempre, insomma, nucleare. Aggiungo che i vantaggi sono una risparmio in bolletta, un piano di investimenti molto importante, si parla di 20 miliardi di euro di investimenti. Sapete, noi in Confindustria stiamo cercando anche di creare una filiera del nucleare, quindi con tante aziende che possono partecipare a questi progetti. Aggiungo che c'è un altro vantaggio, c'è un vantaggio legato alla sicurezza delle fonti. Noi importiamo l'80% delle fonti energetiche da fuori, insomma, è da paesi non sempre tranquilli. E c'è un problema anche di riduzione delle emissioni di CO2. Se noi vogliamo e dobbiamo per forza, abbiamo preso un impegno raggiungere gli obiettivi di riduzione di emissioni di CO2 che ci siamo dati in Europa, il nucleare diventa l'elemento fondamentale per andare avanti. Quindi noi crediamo molto in questo, c'è stato un po' di fermo, bisogna eleggere i membri dell'agenzia, questo è fondamentale, bisogna decidere i siti. Ecco, noi spingiamo perché veramente ci sia il nuovo ministro dello sviluppo economico, e siccome una delle grandi dossier all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico è proprio quello energetico e quello del nucleare, si vada avanti speditamente. Allora, una ricerca presentata da European House Ambrosetti a Cernobbio porterebbe, almeno stima, che il nucleare porterebbe al sistema economico italiano un risparmio dai 4 miliardi e mezzo agli 11 miliardi di euro l'anno. Vogliamo dire 4 e mezzo, la parte più bassa? Diciamo 4 e mezzo. È una manovra finanziaria correttiva. In 10 anni poi i costi di produzione dell'energia si ridurrebbero fino a 69 miliardi di euro e, lo dico anche a chi è ecologista come sono io, attenzione, le emissioni di anidride carbonica, noi produciamo energia elettrica, ve lo ricordate, col gas e oltre che con l'acqua, per cui emettiamo anidride carbonica e con l'elettricità la produciamo, diminuirebbero fino a 381.000 tonnellate. Il piano del governo prevede entro il 2013 l'avvio della costruzione di 8 centrali. Enel e EDF prevedono un ritorno sull'investimento, ci guadagnano, non deve scandalizzarsi che non ci guadagni per fare un impianto nucleare, tra il 10 e il 15%. Sentiamo il nostro Simone Spezia che ne ha parlato con Fulvio Conti, che è amministratore delegato dell'Enel, e ha chiesto in primo luogo cosa sta causando ritardi nella roadmap per il nucleare. Non siamo nel crinale dei ritardi, abbiamo ancora tempo, noi stiamo utilizzando questo periodo come ampiamente previsto all'inizio del nostro progetto per tutto quel lavoro di preingegneria che comunque è necessario per ripristinare la tecnologia nucleare nel nostro paese. Certamente auspichiamo che queste ultime normative e la creazione dell'agenzia venga quanto prima messa a disposizione degli operatori come noi che vogliono partire con il progetto. Ma anche atteso questo ci sono ancora dei mesi di tempo a disposizione, quindi spero che il governo che conferma che il nucleare è parte integrante del programma del governo di voler mettere mano alla definizione degli ultimi tasselli che mancano per liberare questa energia importante che noi operatori vogliamo mettere a frutto per il bene della nostra azienda, ma soprattutto per il bene del paese. L'Italia ha abbandonato il nucleare da parecchi anni. Lei ha l'impressione che sulla base di questa nuova spinta si stia ricreando una filiera? Cioè voi che siete i capofila naturalmente del progetto, avete l'impressione che ci sia un nuovo stimolo su questo fronte? Indubbiamente vediamo un fortissimo interesse da molte aziende, alcune delle quali hanno continuato a trattare il nucleare. Noi nel nostro sviluppo del progetto specifico ci siamo portati dietro l'interesse di Ansaldo, ci siamo portati l'interesse di aziende come Techint, abbiamo evidentemente anche altre aziende che già operano con noi e per noi in altri progetti come quello in Slovacchia, come quello in Francia. Quindi vediamo più di 500 imprese che si stanno preparando a questo evento. La posta in gioco è molto, molto alta, che è un grande progetto infrastrutturale del paese, come potrebbe essere stato negli anni 60 l'autostrada del sole, voglio dire, no? Qualcosa che libera energie che in qualche modo sono latenti nel paese e che rende il paese più competitivo, quindi è interesse di tutto il sistema industriale e credo anche delle parti sociali di voler favorire la ripresa di questo progetto. Così il numero dell'Enel Fulvio Conti, alcune obiezioni sul nucleare, dicono ma è le scorie, dove le mettiamo con gli scandali che abbiamo noi. Attenzione, sarebbe come dire che noi non costruiamo più autostrade o ferrovie perché c'è la mafia, c'è la corruzione o c'è la cricca. Insomma, risolviamo i problemi, non accettiamoli e quindi ci blocchiamo come paese. Comunque il GR ne parliamo anche dopo, dove sentiremo altre valutazioni sullo stato di salute dell'economia italiana e non solo. 349-238-6666 per i vostri SMS. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo molti messaggi sul nucleare, ancora ogni volta che ne parliamo mi sembrano messaggi molto legati a un preconcetto o comunque un'idea a prioristica. Vediamo poi come verrà realizzato. Quello che è chiaro a tutti è che il nucleare è una filiera, non basta fare la centrale e buttarla lì, occorre la gestione completa del sistema e i casi francesi e tedeschi questo ce lo illustrano molto bene come percorsi virtuosi. Io confido che l'Italia possa assomigliare anche in questo alla Francia e alla Germania, che non mi sembrano paesi sottosviluppati in cui la natura non viene considerata, in cui i temi ecologisti non sono presenti nell'agenda politica, però questa è veramente un'opinione personale. Ancora per quello che riguarda i temi invece delle dichiarazioni fiscali, o meglio dei redditi dichiarati e i consumi, non possiamo tornarci, abbiamo aperto con questa notizia. Lasciamo stare sulle scorie. Io vorrei, sulle scorie del nucleare, vorrei che l'Italia facesse quello che fanno gli altri paesi, cioè non capisco perché in Germania non vi sia questo problema. Molti scrivono: ma se non riusciamo a gestire l'immondizia, come possiamo gestire le scorie? E torniamo al punto di prima: non è che siccome non riusciamo a gestire l'immondizia ci fermiamo, iniziamo a gestire l'immondizia, andiamo avanti. Detto ciò, visto che si parlava di Germania, partiamo subito col primo tema, perché dopo le dichiarazioni rese da Mario Draghi venerdì al Financial Stability Forum dicendo attenzione, la Germania è l'esempio virtuoso, su questo è intervenuto, come avrete letto, anche il ministro dell'economia Giulio Tremonti da Cernobbio. Quindi parliamo di prospettive di crescita, timori sulla crescita come messi ieri e poi in vista anche del vertice dell'Eurogruppo che si terrà questa sera. 349-238-6666 per i vostri SMS. Allora, Giulio Tremonti, sull'appello di Mario Draghi, bisogna imitare la Germania. Capitale e lavoro, anche questo. Questa è una discussione che ha preso degli elementi surreali. Cioè, dobbiamo fare come la Germania, tutti dire, è vero, non come l'Inghilterra, come la Germania. Ma sappiamo che il nostro PIL è fatto moltissimo sotto i 100 addetti, dove la Germania c'è già intesa come una coinè di rapporto tra capitale e lavoro. Sopra è una discussione, cerchiamo di essere meno superficiali possibile, perché realmente facciamo come la Germania mi sembra realmente una roba da bambini. Cioè, è molto più importante il problema e quindi evitiamo questa retorica. Non facciamo più come l'Inghilterra. E quando mai abbiamo fatto come l'Inghilterra? Mai abbiamo fatto come in Inghilterra, nel male e anche delle volte nel bene, ma soprattutto nel male. Poi Giulio Tremonti dice: attenzione, non c'è un'emergenza autunnale, ma occorre affrontare il tema delle riforme. E poi torna su un argomento che a noi sta molto a cuore. Abbiamo dedicato le nostre piccole lapidi dei GR dalle 7 alle 8, abbiamo fatto intere puntate su queste. Dov'è il ministro dello sviluppo economico? Anche l'altro ministro, ossia quello dell'economia, Giulio Tremonti, lo ritiene necessario. Si dice serve un ministro, e naturalmente è necessario un ministro, ma quando c'era il ministro si diceva che mancava una politica industriale. Allora, post hoc, ergo, propter hoc. Io inviterei a essere un po' meno dialettici e a volte anche un po' superficiali in queste discussioni. Serve un ministro, ma se anche c'è un ministro, quello che dovrebbe essere il NRP italiano lo deve fare tutto il governo, tutto il Parlamento, tutto il Paese. Naturalmente non vuol dire che serve il consenso e se no c'è il blocco, ma lo deve discutere come idee, come proposte, lo deve discutere la più ampia base possibile. E benvenute le idee in più rispetto a quelle in meno. E naturalmente sarebbe divertente e interessante che il tono non fosse realmente i Guelfi e i Ghibellini, per cui quella che io penso sia una proposta giusta non la metto perché sennò avvantaggerebbe il mio avversario politico. E su questo la Presidente di Confindustria, come forse avrete letto, dopo Marcegaglia, dopo aver elogiato il Ministro Tremonti sul rigore che ha tenuto, devo dire che questo viene riconosciuto dovunque, anche da Tommaso Padoa-Schioppa in un'intervista sulle 24 ore, anche dall'Europa, il rigore è sui conti pubblici, ha detto attenzione, adesso bisogna aumentare però la produttività e la competitività del Paese, e qui è arrivata una stoccata in dubbio anche per il Governo. Attenzione, non c'è una visione, una volontà veramente ovvero di lavorare su tutti i punti che riguardano la crescita. Sentiamo la Presidente di Confindustria intervistata dal nostro Simone Spezia. La crescita è l'elemento fondamentale, nei 5 punti si parla di sud e di fisco, però non vediamo una volontà complessiva di dire poniamoci l'obiettivo di crescere almeno al 2% all'anno e facciamo tutto quello che è necessario, infrastrutture, ricerca, burocrazia, scuola, cioè lavoriamo con la logica di che tutto il paese si dia l'obiettivo di crescere. Se noi non cresciamo noi non riusciremo a ridurre la disoccupazione e non riusciremo a tenere in piedi il nostro sistema industriale, quindi chiediamo che ai 5 punti venga aggiunto questo che dovrebbe diventare il primo punto in assoluto. Noi proprio chiediamo con forza che, ecco, più che l'economia, perché alcune cose come la crescita, proprio bisogna tornare a crescere. La Germania quest'anno crescerà probabilmente attorno al 3%, noi le nostre stime parlano di un 1-1,2%, e veniamo già da 10 anni in cui la nostra crescita è stata molto inferiore alla media europea. Allora deve entrare questa logica e la crescita deve essere al centro dell'attenzione del governo, delle parti sociali e anche dell'opposizione. Noi non facciamo politica, rappresentiamo il mondo dell'economia e delle imprese e diciamo adesso è venuto il momento di fare delle scelte sulla crescita, quindi è certamente di stimolo, e anche però evidenziamo che soprattutto in quest'estate si è parlato di tante cose secondo noi inutili, si è parlato invece molto poco di economia e di crescita. E poi l'appello al governo affinché, sempre da parte della Presidente di Confindustria Marcegaglia, affinché convochi un tavolo con le varie parti sociali per decidere gli obiettivi prioritari di politica economica. Adesso il traffico e poi la nostra intervista con Franco Bernabè. Di nuovo in diretta, ultima parte di Focus Economia. Allora, abbiamo parlato in questi giorni con Franco Bernabè a Cernobbio, anche lui per il workshop Ambrosetti, il numero uno di Telecom Italia, della situazione, è anche un economista, è stato il numero uno dell'ENI, la situazione vista da lui come manager e da numero uno di Telecom Italia, meno del gruppo Telecom Italia, perché ne parleremo poi in un'intervista più avanti nelle prossime settimane, e allora le prospettive economiche. I problemi strutturali che noi abbiamo ereditato dalla crisi finanziaria non sono affatto superati. I livelli di indebitamento pubblico, i livelli di deficit, i problemi di disoccupazione, i problemi di caduta dei valori immobiliari e quindi di necessità per le famiglie di ricostituire livelli adeguati di risparmio sono tutti vincoli che pesano sulla ripresa. Quindi io credo che prima che questi problemi vengano superati passerà moltissimo tempo. Quelli che vediamo oggi sono dei segni di ripresa piccolissimi che vengono come effetto delle politiche di rilancio fatte dai diversi governi sostanzialmente lo scorso anno. E tra l'altro devo dire che questi effetti stimolativi dell'azione di governo, l'azione dei governi, sono effetti stimolativi che si vanno esaurendo. Quindi o ci sono delle componenti della domanda che autonomamente tirano lo sviluppo, oppure la ripresa è destinata certamente a fermarsi. Quindi io direi che il problema va valutato sotto il lato delle condizioni generali in termini estremamente prudenti, cioè la ripresa che c'è, se c'è, è molto fragile. Però io credo che uno non è che possa aspettare dei meccanismi di ripresa tipo quelli che abbiamo visti nel passato. Cioè qui ci sono da creare condizioni diverse di rilancio delle economie, intervenendo sui meccanismi strutturali che favoriscono la crescita economica, e questi meccanismi sono ovviamente la produttività, il rilancio dell'occupazione, il rilancio dei livelli quindi occupazionali e i livelli salariali, e quindi la capacità di spesa delle famiglie, le prospettive, se vogliamo, anche di ripresa degli investimenti che sono trainati dal rilancio della domanda. Quello che abbiamo visto fino adesso è purtroppo una cosa estremamente fragile, che se non si concretizza in una ripresa della domanda della famiglia o della domanda degli investimenti, si ferma qui. Ecco, anche lei metteva in evidenza il fatto che per parlare di una ripresa vera e propria, sostenuta, strutturata, occorre che ripartano i consumi. Sull'export il caso è già diverso, ma sui consumi ancora non ci siamo. Nell'ultimo vertice nel Wyoming, a Jackson Hole, si sono in qualche modo scontrate o contrapposte due visioni diverse. L'America dice piuttosto continuiamo a tenere i tassi bassi e a iniettare di liquidità il sistema, perché il nostro problema è ridurre la disoccupazione e tornare a tassi più alti di occupazione. E per far questo, in sostanza, siamo anche disposti a imbarcare ancora deficit e quindi debito. La preoccupazione americana, la preoccupazione europea, mi scusi, è invece quasi opposta. Sempre per far ripartire i consumi, l'Europa dice occorre dare garanzie che non vi saranno nuove strette fiscali, nuove strette sui conti pubblici nel futuro, quindi risanare e partire con un piano di rientro dei conti pubblici, questo genererà fiducia e i consumi ripartono più con la fiducia che non con l'occupazione. Lei, insomma, di questi due approcci, direi sostanzialmente diversi, quale sposa con più favore? Ma io credo che l'approccio americano di non dare sistema di liquidità abbia già prodotto danni devastanti negli anni scorsi, e quindi, a mio modo di vedere, non può essere la ricetta per uscire dai problemi attuali. Quello che serve è un rilancio economico in termini molto più ampi, basato su condizioni strutturali di miglioramento dell'economia, basato sul recupero della produttività. Ecco, non voglio dire la ricetta tedesca, ma certamente la Germania considera i problemi strutturali dell'economia molto più rilevanti di quelle condizioni di rilancio puramente monetario che sono già state sperimentate nel 2002-2003 dopo la crisi delle dot-coms e che sono all'origine dei problemi che viviamo adesso. Quindi io direi che la ricetta europea è la ricetta giusta, anche se molto più lunga e molto più faticosa. Non è una ricetta che darà risultati nel breve periodo, ma quando si incomincia è una ricetta che è destinata a funzionare seriamente. Ecco, un ultimo punto, perché anche lei cita la Germania come modello, come ha fatto Mario Draghi come esempio per l'Italia, il modello tedesco. C'è da dire che, insomma, alcuni hanno fatto notare, insomma, sarebbe pensabile in Germania non avere per 122 giorni un ministro allo sviluppo economico, un ministro dell'industria in carica, o anche non avere per 64 giorni il presidente della Consob, al di là del fatto che il presidente del Consiglio Berlusconi ha annunciato che salirà al colle per consegnare il nome del ministro al presidente della Repubblica. Serve per una politica industriale seria, come chiede Napolitano, un ministro? Beh, ovviamente non basta un ministro per fare una politica industriale seria, bisogna che ci sia un ministro che ha a cuore la politica industriale e che si impegna attivamente sulla politica industriale. Certamente la politica industriale serve. Noi abbiamo bisogno di un rilancio strutturale dell'economia italiana e per questo serve, direi, non tanto e non solo una politica industriale, servono tutta una serie di condizioni contorno, perché il rilancio dell'economia è fatto da interventi sulla fiscalità strutturale, è fatto sulle condizioni complessive del mercato del lavoro e quindi delle politiche del lavoro, quindi in termini di maggiore flessibilità, è fatto poi anche di idee di politica industriale. Però direi che è un concorso complessivo del governo che fa il rilancio dell'economia. Non basta un ministro, pur se ovviamente il ministro dell'economia è importante. Ecco, dentro la politica industriale c'è anche il processo di liberalizzazioni, o per meglio dire un processo di separazione rete e contenuti che viaggiano sulla rete? Ma guardi, questa... Parlo in generale, non parlo solo della Telecom, parlo anche dell'ENI, parlo insomma di due gruppi che lei conosce molto bene. Guardi, il problema della rete separata dai servizi è un problema che riguarda le essential facilities. Ora, nelle telecomunicazioni tutta la politica di liberalizzazione si è basata sul principio che le reti di telecomunicazioni fossero replicabili e quindi che non fosse necessario separare la rete dei servizi. Questo è quello che abbiamo realizzato fino adesso e che riteniamo sia corretto realizzare. A differenza di quello che avviene col gas, invece, dove è difficile replicare una pipeline, visto che lei ha fatto anche questo delegato dell'ENI. Beh, tant'è che le pipeline sono separate dal servizio, quindi effettivamente quello è stato fatto, ma era già stato fatto nel passato, devo dire, erano state realizzate delle condizioni di separazione che erano delle condizioni allora fra le più avanzate in Europa. Così Franco Bernabè, numero uno di Telecom Italia, che abbiamo raggiunto in questo weekend a Cernobbio. È arrivata anche, come ogni giorno, la richiesta delle mie dimissioni da parte di un ascoltatore, mi stavo preoccupando. Giuseppe Cruciani condurrà come sempre dopo questo programma La Zanzara. Domanda per te, visto che sul nucleare vedo anche molte critiche, fanno notare le persone che gli abitanti vicini ai siti tedeschi nucleari hanno tassi di leucemia 10 volte più alti, verificheremo. Fanno notare che l'uranio si compra all'estero, sì, è vero, ma intanto si diversificano le fonti. Comunque, noi sul nucleare siamo neutri, non siamo contrari a prescindere. La tua opinione sul nucleare, così? No, ma io sono favorevole a fare pure sotto casa mia, per cui ecco, tu non hai neanche domande troppo serie, però. Il NIMBY, allora parliamo di cose. Io sotto casa mia, nel giardino di casa mia, farei una centrale nucleare, per cui non sono della partita. Vabbè. Allora, di cose facili, ti occupi di Venezia inteso come festival, sì o no? Oggi? Ah, questa dichiarazione di Placido su Balanzasca, certamente. Poi abbiamo Francesco Rutelli come nostro ospite, e poi ci occuperemo anche di Bruno Vespa e dei suoi complimenti a Lavallone. Solite cose. Allora, tra pochi minuti La Zanzara, Focus Economia invece termina qui. Da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata. Vado di fretta perché siamo lunghi coi tempi. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.